TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La delibera sulla cabinovia il giorno dopo. Ieri il Consiglio Comunale di Trieste aveva approvato l'anticipo con fondi del municipio dei 30 milioni da destinare alla realizzazione dell'opera, ma al momento del voto Forza Italia si era smarcata dalla maggioranza. Intanto un emendamento alla finanziaria punta a garantire il finanziamento nazionale. Filmava con videocamere nascoste in bagno le figlie minorenni della compagna e con un'app caricata sul suo smartphone entrava nei sistemi di videosorveglianza installati in abitazioni private. I carabinieri hanno arrestato a Udine un elettricista. È durata meno di 5 minuti stamattina l'udienza del processo sulla tragedia del Natisone, la morte di 3 ragazzi travolti dall'improvvisa piena del fiume il 31 maggio del 2024. È stata comunque un'udienza molto importante, perché il giudice ha disposto la citazione del Ministero dell'Interno e dell'ARCS per responsabilità civile. A Sacile il suono che ha conquistato i pianisti di tutto il mondo nasce in un'azienda che unisce competenza artigianale e innovazione tecnologica, è la Fazzioli. Qualità senza compromessi, quello che ci interessa è costruire pianoforti di qualità superlativa, dice il fondatore Paolo Fazzioli. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Livia Liberatore e Antonio Cagliazza. Dunque è passata nella prima serata di ieri la delibera in Consiglio Comunale a Trieste che accantona 30 milioni di euro di fondi comunali per il primo finanziamento del progetto di realizzazione della cabinovia metropolitana tra il centro cittadino, il Porto Vecchio e Opicina. Ma le conseguenze politiche rischiano di essere pesanti perché una parte della maggioranza, Forza Italia, si è sfilata. Due consiglieri, il capogruppo Alberto Polacco e l'assessore Michele Babuder, non hanno partecipato al voto uscendo dall'aula, come avevano già fatto le opposizioni, mentre gli altri due consiglieri, Angela Brandi e Lorenzo Giorgi, sono rimasti all'interno, garantendo così il numero legale per non invalidare il voto, ma hanno votato contro. A non convincere il rischio di un'eccessiva esposizione finanziaria del comune. Su questo fronte, peraltro, il senatore e segretario regionale della Lega Marco Dreosto, da noi contattato, ha confermato di essere firmatario di un emendamento alla legge di bilancio nazionale per riparametrare l'erogazione dei fondi ministeriali per la cabinovia, a compensazione di quanto anticipato dal Comune di Trieste. Se l'emendamento sarà accolto e approvato, i fondi da Roma arriveranno già dal 2026 fino al 2028, anziché tra il 2027 e il 2034. Ma sentiamo dalla consigliera di Forza Italia, Angela Brandi, le ragioni che hanno portato il suo gruppo consiliare a distinguersi dal resto della maggioranza. Sono essenzialmente aspetti tecnici quelli che non vanno bene in questa delibera. Noi abbiamo tentato di farla modificare, tanto è vero che il Consiglio è stato rinviato di una settimana. Poi però evidentemente non c'è stata la volontà di fare queste modifiche. È una delibera che è stata costruita molto su periodi ipotetici. Pone l'accento sulle obbligazioni giuridicamente perfezionate e quindi sì, non va bene secondo noi. Sul piano politico è indebolita la maggioranza? Non credo, la nostra posizione è stata proprio per favorire la maggioranza, altrimenti probabilmente, ripeto, io e Giorgi ci saremmo astenuti prima del voto, cioè non avremmo partecipato al voto e di conseguenza la delibera non poteva andare avanti. Quindi il nostro è stato un intervento ad adiuvandum, quindi a favore della maggioranza. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un elettricista installatore di sistemi di videosorveglianza è stato arrestato con l'accusa di aver fotografato di nascosto le figlie minorenni della convivente e di aver acquisito filmati dalle telecamere di sicurezza installate nelle abitazioni di clienti. avrebbe filmato le figlie della convivente mentre erano in bagno e acquisito immagini delle videocamere di case altrui. Un elettricista e installatore di sistemi di videosorveglianza di un piccolo comune della provincia di Udine è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per i reati di interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pedopornografico. A denunciarlo, la convivente, dopo aver rinvenuto sul telefono cellulare dell'uomo fotografie delle figlie nude, all'epoca ancora minorenni. Durante la perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria, i carabinieri della sezione cyber di Trieste hanno sequestrato anche un altro telefono cellulare, hard disk e altri supporti informatici. Nei confronti dell'indagato è stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare per il reato di detenzione di materiale pedopornografico. Ma oltre alle due ragazze, l'elettricista filmava anche i suoi clienti. L'uomo avrebbe infatti scaricato sul proprio smartphone un'applicazione che gli permetteva di accedere da remoto ai sistemi di videosorveglianza installati nelle abitazioni dei propri clienti, visualizzando e scaricando immagini. Sentiamo il maggiore Fabio Gentilini, comandante del nucleo investigativo. Lui era un professionista conosciuto, forse per questo, dato che era conosciuto, si fidavano e no, queste persone, come hanno confermato anche, non cambiavano la prima password. Sei le persone residenti a Udine e provincia che hanno sporto denuncia, ma come proteggersi da questo tipo di reati? Intanto cambiando spesso la password, gli user del password per accedere a questi dispositivi, far installare da professionisti fidati e modificare sempre a cadenza più o meno regolare con password anche non di facile scoperta. Le indagini sono coordinate dalla Procura distrettuale di Trieste, di competenza per questo tipo di reato. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel processo per la tragedia del fiume Natisone entrano anche il Ministero dell'Interno e l'ARCS, l'azienda regionale di coordinamento per la salute. Una richiesta in tal senso era arrivata dalle parti civili. Oggi l'approvazione da parte del giudice Falischini Barnaba, che ha poi rinviato il processo al 3 marzo per l'inizio del dibattimento. Il processo sulla tragedia del Natisone entrerà nel vivo nella sua fase dibattimentale a partire dal 3 marzo 2026 e vedrà la partecipazione di Ministero dell'Interno e ARCS, Agenzia Regionale di Coordinamento Salute, gli enti di appartenenza dei quattro imputati, tre vigili del fuoco e un infermiere, chiamati a rispondere di omicidio colposo per la morte di Patrizia, Bianca e Christian. Ultima udienza tecnica di pochi minuti questa mattina in tribunale a Udine davanti al giudice Falischini Barnaba. Il giudice ha disposto la citazione dei responsabili civili, cioè dei soggetti che debbono rispondere eventualmente del risarcimento del danno che dovesse intervenire, ha dichiarato Stefano Buonocore, avvocato difensore di due dei vigili del fuoco. Il 3 marzo avranno la possibilità di costituirsi, se lo riterranno, e partecipare attivamente al processo, oppure gli enti potranno rimanere contumaci. Nell'eventualità di condanna al risarcimento del danno sarebbero infatti i responsabili civili a rispondere per i propri dipendenti. Era una decisione che ci aspettavamo, dichiara Maurizio Stefanizzi, avvocato di parte civile. L'abbiamo chiesto noi, già nei prossimi giorni procederò con la citazione del Ministero dell'Interno tramite l'Avvocatura dello Stato e dell'ARCS tramite l'Avvocatura regionale. Non presenti in aula gli imputati rappresentati dai loro legali. Numerosi anche questa volta i vigili del fuoco in tribunale, venuti in abiti civili a dimostrare solidarietà nei confronti dei colleghi imputati. Presenti in aula anche diversi infermieri assieme al presidente dell'Ordine di Udine. La professione deve dimostrare di essere unita, coesa e essere presente in questi momenti importanti, afferma Stefano Giglio, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine. È un collega con molte competenze, in questi anni ha maturato tante esperienze, viene anche dalla vita militare, per cui sicuramente, continua, è stato in grado di assumere tutte le decisioni importanti che lo hanno condotto a fare le scelte più opportune. Siamo convinti, conclude Giglio, che il tempo darà giusta risposta alla sua posizione. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. La rieducazione del condannato sancita dalla Costituzione mal si concilia con la situazione attuale della casa circondariale di Trieste, dove a fronte di una capienza effettiva di 117 posti, le persone detenute sono da quasi un anno attestate sulle 240 presenze. Lo denuncia in un documento Elisabetta Burla, garante comunale di Trieste dei diritti dei detenuti, in seguito alla recente evasione di un detenuto. A ciò si aggiunge la carenza di organico organico della polizia penitenziaria, sotto di una ventina di unità, e il cui personale è spesso impiegato in piantonamenti in strutture sanitarie. Inasprire le pene e creare nuovi reati ha avuto il solo risultato, commenta ancora Burla, di incrementare il numero di persone ristrette in carcere anche per reati che non destano particolare allarme sociale. A Udine, bilancio di fine anno per ASUF, l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Da una parte la crescita tecnologica, dall'altra la pesante carenza di infermieri. Un paradosso emerso nella fotografia dell'ente presentata oggi alla stampa. Nel servizio anche la voce di Denis Caporale, direttore generale di ASUF. È appena terminata questa presentazione del bilancio annuale di ASUFC, un bilancio in cui avete dato tanti numeri, tra cui l'aumento del rispetto dei tempi delle liste d'attesa, che passa dal 61 al 67%, forte crescita, ma ancora siamo lontani dall'obiettivo del 90% a livello nazionale. Sì, la sfida per il futuro sarà sicuramente raggiungere il target del 90%, importanti miglioramenti sono avuti, in particolar modo su alcune visite specialistiche, su alcuni esami strumentali. C'è ancora tanto da fare, però ci siamo. Al direttore generale Caporale chiediamo anche quali sono i limiti che impediscono di arrivare ancora a questo 90% sulle liste d'attesa. Sicuramente anticipare la programmazione significa dare anche dei tempi più lunghi per dare le risposte, che se, come è avvenuto quest'anno, il finanziamento delle aziende e quindi con l'approvazione dei bilanci avviene entro l'anno in corso, per l'anno futuro sicuramente ci saranno più possibilità di raggiungere gli obiettivi, e questo secondo me è parte fondamentale di una programmazione sanitaria che vedrete ci darà ragione. Questione personale: abbiamo visto un buon incremento degli operatori sociosanitari e anche dei medici, mentre gli infermieri a livello tendenziale scendono. Qual è il problema con questo tipo di professione? Facciamo ancora fatica sulla parte degli infermieri, ci sono tanti in uscita e posso assicurarvi che non vanno verso il privato, sono in uscita perché si ritirano in pensione. E il futuro sicuramente incentivare la professione sanitaria dell'infermiere sicuramente sarà la sfida non solo di questa azienda ma del sistema sanitario in complessivo. Quindi sostanzialmente sono infermieri che vanno in pensione che non riuscite a sostituire con nuove leve perché non ci sono? Non ci sono, fanno fatica naturalmente a essere formati, fanno fatica ad accettare anche quello che è il lavoro difficile, quello dell'infermiere, che prevede i turni, che prevede il lavoro sabato e domenica e che prevede un sacrificio importante anche all'interno della propria vita personale. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo il tempo: cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 12 gradi, a Gorizia e Udine 11, a Pordenone 10,5, a Tolmezzo 9 gradi, a Tarvisio 7, a Forni di Sopra 6, Piancavallo 5,5 gradi, Sappada 3,5, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 2 gradi, a Grado e Lignano 11 gradi. Ed ecco le previsioni: oggi pomeriggio cielo coperto, atmosfera umida con nubi basse, foschie, possibili temporanee nebbie, nonché qualche piovigine, possibile qualche schiarita sui monti. Un'occhiata a domani: cielo da prevalentemente coperto su coste e zone orientali, a variabile sui monti, dove si avranno maggiori schiarite sulla fascia alpina e in Carnia. Con l'approssimarsi delle festività natalizie, il traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico è destinato a incrementare, in particolare lungo la direttrice Venezia-Trieste dell'autostrada A4. La chiusura delle scuole e le partenze per le ferie comporteranno un maggiore afflusso a partire dal pomeriggio di domani. Il traffico sarà da bollino rosso, particolarmente intenso, e si riverserà in particolare verso la barriera di Trieste-Lisert, dove potrebbero verificarsi code e rallentamenti. Stessa situazione nell'intera giornata di sabato 20. Già a partire dal mattino, lungo la carreggiata in direzione Trieste, è probabile che si creino rallentamenti alla barriera del Lisert. per gli ultimi rientri verso il centro-est Europa. Non sono segnalate altre particolari criticità nei giorni a seguire, a eccezione di sabato 3 gennaio, in concomitanza con il rientro dei primi lavoratori dal centro-est Europa verso il nord Italia e soprattutto con l'inizio dei saldi invernali. Dopo una lunghissima attesa, a Grado poco fa è stato inaugurato il Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico. Il progetto di restauro e allestimento della struttura è stato coordinato dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e dal Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di Trieste. Il museo ospiterà anche la Julia Felix, la nave mercantile di età romana scoperta nel 1987 nella laguna di Grado. Proprio il racconto dell'attività commerciale in epoca romana nell'Alto Adriatico è al centro del percorso espositivo. Ce ne parla Marta Novello, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, alla quale è affidata la direzione scientifica del nuovo progetto museale. Il percorso espositivo trova il suo fulcro nella Julia Felix. Si tratta di una nave naufragata nel secondo secolo d.C. che percorreva le sue rotte nell'Alto Adriatico e aveva come punto di riferimento tutto quel sistema portuale caratterizzato da un insieme di rotte marittime e terrestri che aveva il suo capo nella città romana di Aquileia. Cosa trasportava questa imbarcazione di così importante? L'imbarcazione trasportava un carico di oltre 600 anfore riempite con pesce sottosale e salse di pesce. Viaggiavano all'interno di anfore che venivano riutilizzate, erano anfore prodotte in diverse parti del mondo antico del Mediterraneo, inizialmente prodotte per il trasporto di vino e olio, che da un produttore locale vengono riutilizzate per trasportare il meglio, il fiore delle salse di pesce prodotte nell'Alto Adriatico. Possiamo ricordare l'orario d'apertura? A partire dal giorno dell'inaugurazione il museo sarà aperto venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18 per il periodo invernale, cioè quindi fino al 30 aprile, ma sarà aperto anche in tutti i giorni festivi tranne il giorno di Natale, mentre a partire dal 1 maggio per la stagione estiva sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. E alla Biblioteca dell'Africa di Udine sarà presentato il libro del giornalista del Sole 24 Ore Alberto Magnani, Le ali dell'Africa, in cui racconta l'evoluzione dinamica e complessa del continente, alle 18.30 in via Battisti. Per lo sport, la pallacanestro ieri sera in Champions League, Pallacanestro Trieste ha perso 77-90 in casa contro Wolfsburg, chiudendo terza nel girone. Nei play-in di gennaio giocherà quindi la prima partita in trasferta. In A2 Cividale è stata sconfitta a Rimini 74-67. Sentiamo la cronaca della partita. Prima o poi la sconfitta doveva arrivare. Rimini interrompe la serie positiva della Gesteco che cede solo nel finale alla quotata formazione romagnola. Il primo quarto ha un andamento molto altalenante con break da una parte e dall'altra. Nel finale Cividale opera il sorpasso con un tiro da tre di Marangon e va alla prima pausa sul 18-17. I gialloblu danno il meglio nel secondo parziale, ma non riescono mai ad operare un vero break. Due volte avanti sul più 6 con una tripla di Mastellari, gli ospiti vengono riagganciati dalla squadra di Dell'Agnello e all'intervallo lungo si arriva in totale equilibrio, 37 pari. Il terzo quarto inizia nel segno di Rimini, con Marini autentica spina nel fianco della difesa di Pillastrini. I padroni di casa raggiungono il più 8, ma Cividale reagisce alla sua maniera e ritrova la parità con il solito Redivo. All'ultima pausa è 55-54, l'incontro prosegue nel segno dell'equilibrio per i primi 3 minuti e mezzo del quarto conclusivo. Mastellari trova l'ennesima bomba per il 63-63, ma è l'ultima parità. Rimini stringe le maglie della difesa e si riprende il vantaggio. Redivo sbaglia la tripla del pareggio e a 38 secondi dalla conclusione Ogden centra il canestro da 3 che chiude il conto per il 74-67 finale. Tra i cividalesi ottima prestazione di Berti, in grande crescita quest'anno per lui, 14 punti frutto di un 6-8 e 8 rimbalzi, in ombra Freeman e Ferrari, Redivo sempre più a suo agio nei tiri da distanza ravvicinata, mentre sta perdendo in precisione dalla lunga distanza. In classifica la Gesteco rimane seconda a quota 22 agganciata da Rimini. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, ospita da stasera al 21 dicembre il Birraio di Preston, che lo stesso scrittore, assieme al regista Giuseppe Di Pasquale, ha tratto dall'omonimo e fortunato romanzo. Il sipario si alza alle 20:30. Abbiamo sentito il regista Giuseppe Di Pasquale, che ci racconta l'entusiasmo col quale Camilleri ha seguito la genesi della prima versione teatrale del suo racconto nel lontano 1999. Ha visto anche la prima edizione, perché anche questa è la terza edizione dello spettacolo con altri attori, insomma, è rinnovata ed era divertito. Ricordo che venne a vedere la prova, una delle prove generali, e affondato proprio in platea si divertiva come un matto, quindi l'ha apprezzata molto. Naturalmente abbiamo lavorato anche a quattro mani alla riduzione, e ogni volta lui mi dava le indicazioni giuste per far sì che una scena funzionasse al meglio, insomma era molto contento. Più capitoli nella parte in prosa, da dove si parta non è importante, e vale la stessa cosa anche per lo spettacolo nella riduzione. Lei che punto ha scelto? Sì, questa è stata esattamente la chiave poi per, come dire, replicare il meccanismo, la struttura narrativa che Camilleri aveva scelto nella pagina scritta. Sono riuscito a fare questo attraverso, diciamo così, delle anticipazioni, dei flashback, di quelle che vengono chiamate prolessi retoriche. Siamo riusciti a ricostruire lo stesso meccanismo di sovrapposizione dell'intreccio. Nella storia il Birraio di Preston è fortemente voluto dal prefetto Baffi. Chi potrebbe essere questa figura oggigiorno? Non vorrei espormi per paura di denuncia, però Camilleri, insomma, non è la prima volta che individua una figura, appunto, di un funzionario dello Stato. I prefetti un po' li ha presi sempre di mira, li prende di mira in Montalbano, li prende di mira nella concessione del telefono, l'ha presi di mira nel Birraio di Preston, ma sempre benevolmente. In realtà lui vuole stigmatizzare questa ossessione o fanatismo per la burocrazia, ed è questo il suo vero nemico. Il vero nemico di Camilleri, che è un po' il nemico del cittadino, è proprio la burocrazia, che stritola la creatività umana e anche il quotidiano vivere umano. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora entriamo alla Fazzioli di Sacile, una delle fabbriche di pianoforti più rinomate al mondo. 150 pianoforti prodotti ogni anno in 7 modelli ed esportati in tutto il mondo. Il suono che ha conquistato i pianisti di tutto il mondo nasce a Sacile, in un'azienda che ha saputo unire competenza artigianale e innovazione tecnologica nella visione del suo fondatore, l'ingegnere e pianista Paolo Fazzioli. Qualità senza compromessi, nel senso che quello che a noi interessa non è costruire un pianoforte che abbia un determinato valore o un determinato costo, ma a noi ci interessa costruire un pianoforte che abbia una qualità superlativa. Qualsiasi cosa che ci porta a questo è benvenuta. Nella fabbrica friulana vengono prodotti 150 pianoforti l'anno in 7 modelli, da 156 centimetri a oltre 3 metri di lunghezza, anche con richieste personalizzate, diretti nelle migliori sale da concerto, concorsi pianistici e conservatori del mondo. La mano artigiana è la chiave dell'eccellenza di questi strumenti, unita però alla ricerca, ad esempio con sofisticati software per lo studio del suono o la selezione dei materiali. Alessandro Lendaro, responsabile produzione. Noi sposiamo l'artigianalità con l'innovazione. È molto importante l'aspetto umano e le macchine. Le macchine arrivano fino a un certo punto, l'uomo è quello che fa ancora la differenza nel dettaglio. Noi dobbiamo sposare questa condizione. Il miglioramento continuo ci permette sempre di arrivare a qualità sempre maggiori. All'interno l'azienda ospita anche un'attiva sala da concerti e da anni lavora alla sostenibilità con legni certificati e energia pulita da fotovoltaico, mentre guarda al futuro. Luca Fazzioli, vicepresidente. Noi cerchiamo di sviluppare, di ricercare nuove tecnologie per migliorare il pianoforte acustico, dove sempre di più nel nostro settore si va verso uno strumento digitale o con sistemi di riproduzione automatica. Noi invece ci teniamo che lo strumento sia acustico e che allo stesso tempo si possa sempre di più migliorare in linea con quella che è la nostra mission. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentazione stasera del nuovo videodocumentario Trieste, città del caffè, un racconto che in 20 minuti ripercorre 3 secoli di storia, impresa e identità legati ad uno degli elementi più caratterizzanti della città. Il progetto è curato dall'Associazione Museo del Caffè e realizzato da VideoEst con l'obiettivo di valorizzare il ruolo di Trieste nel panorama europeo del caffè, dal Porto Franco alle prospettive contemporanee. Il documentario è frutto di 8 mesi di lavoro fra ricerche d'archivio e sceneggiatura, inserito in un più ampio progetto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da partner istituzionali e privati. All'incontro parteciperanno il presidente dell'Associazione Museo del Caffè Gianni Pistrini e il regista Alessio Bozzer, con interventi dei rappresentanti delle associazioni di categoria. L'appuntamento è dunque nella sala tessitori del Consiglio regionale in piazza Oberdan a Trieste alle 17:30. Ora sono le 12:55 minuti e 15 secondi. Grazie a Caterina Cabrelli e a Mauro Cumin per l'assistenza tecnica, a Valentina Veneruso per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul nostro sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Livia Liberatore e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.